Sala in tavola di Nicoletta Carbone. Puntata in replica. C'è quella dei 9 giorni, quella dei 18, quella che sgonfia, quella che depura e fa dimagrire, quella che fa solo dimagrire. In alternativa possiamo offrire la dieta dei colori, che migliora anche l'umore, quella del salto dei pasti, che permette anche di risparmiare, quella take away per chi non ha tempo di cucinare. Accomodatevi, signore e signori, è arrivato il campionario di primavera. C'è una dieta per chi vuole dimagrire, per chi vuole ringiovanire, c'è la dieta per chi è sempre a dieta, la dieta per chi non deve stare a dieta e quella per chi è stato tradito dalla dieta. Quale libro di dieta stai cercando? Non lo so, qualcosa con un titolo del genere: chi vuol perdere tutti i chili di troppo senza fare un bel niente? Che ne dici di quello? Ti prego, no. Credevo facessi sul serio. Ed è vero, non appena avrò finito questo dannato coso al caramello e nocciole. Eccoci qua, intanto buongiorno, l'avrete capito il messaggio di oggi? Se state pensando di mettervi a dieta, cambiate idea, perché la dieta può nuocere alla linea e alla salute. E questo è quello di cui parliamo oggi alla tavola della bufala in tavola, e oggi è tornato a trovarci il dottor Stefano Erzegovesi, medico, nutrizionista e psichiatra al San Raffaele di Milano, ma amico della bufala in tavola. Amicissimo, buongiorno Nicoletta, buongiorno a tutti, buona domenica. Allora, giù con un'altra porzione di lasagna, non dobbiamo stare a dieta e mai assolutamente la domenica. Pranzo la domenica è il pranzo per eccellenza in cui si fa festa, soprattutto insieme alle persone cui vogliamo bene. Non vogliamo parlare di dieta, io mi sono lanciata e ho detto la dieta può nuocere gravemente alla salute e alla linea. Mi sono allargata troppo a proposito di dieta? Nessun estremismo, ci sono al contrario moltissime diete estreme che possono realmente nuocere alla salute da un punto di vista sia fisico, che vuol dire metabolismo rallentato, maggiore quantità di massa grassa e meno di massa magra, ma anche e soprattutto da un punto di vista psicologico. Diete molto rigide comportano alterazioni dell'umore, alterazioni della capacità di pensare in maniera focalizzata e quindi difficoltà a concentrarsi, e soprattutto ossessione, cioè si ha sempre in testa cosa mangio, cosa non devo mangiare, cosa c'è, cosa non c'è. Questo ci fa molto male. Quindi non mettiamoci a dieta, mangiamo meglio e forse avremo anche la piacevole sorpresa di mangiare di più, e soprattutto, dottor Erzegovesi, di rompere quella monotonia che spesso caratterizza i pranzi e le cene di chi sta un po' a stecchetto e di chi teme sempre di ingrassare. A questo non c'è dubbio. Pensiamo ai contadini degli anni 50. Mangiavano quello che c'era, ma il fatto di mangiare quello che c'era li metteva automaticamente nella condizione di mangiare le cose più varie possibili, perché c'erano le stagioni, perché c'era la disponibilità povera, ma una povertà in realtà ricchissima, e quindi vuol dire mai un'alimentazione monotona, mai un'alimentazione che comporti alimenti che non ci sono mai. Dicevamo prima, il pranzo della domenica si mangia tutto, anche se è grasso, anche se ci dicono che fa male, anche se è fritto. Certo, non possiamo fare domenica tutti i giorni, e questo la saggezza contadina ce lo insegnava. Applichiamolo oggi, anche se siamo ricchissimi, tanta varietà, ma tanta varietà soprattutto di alimenti poveri. Alimenti ricchi una volta ogni tanto. La tavola, dottore Erzegovesi, è una questione di testa, perché è proprio da lì, dalla nostra testa, che parte quella voglia di cambiare e anche la forza e l'energia per affrontare quelle inevitabili sfide che ogni cambiamento porta con sé. E allora oggi ho invitato un esperto che potrebbe darci una mano a lavorare proprio in questa direzione. È in linea con noi, quindi virtualmente seduta alla tavola della bufala in tavola, poi una volta lo faremo proprio venire qui in carne e ossa. Stefano Santori, coach, formatore, esperto di mind setting, che, per dirla un po', per parlare come si mangia, a proposito, è una sorta di cambiamento di mentalità. Dottor Santori, ho detto giusto? Esatto, Nicoletta, giustissimo. Intanto ovviamente rinnovo il buongiorno a tutti. Sì, il punto di partenza su cui poi io mi muovo è proprio quello della mentalità. Diciamo che quello che sta già avvenendo in trasmissione in termini di cambi di mentalità è proprio il primo passaggio fondamentale, perché il mindsetting basa come primo step, diciamo, proprio l'apprendimento metacognitivo, ovvero, tradotto sempre nel parliamo come mangiamo, significa che un fattore fondamentale per la mentalità è avere le giuste, corrette conoscenze e informazioni su di sé, sul proprio metabolismo, sul funzionamento, perché poi molte volte le persone che fanno emulano la dieta terrificante dell'amico, dell'amica che racconta che in 6 giorni ha perso 3 chili, cercano di emulare il comportamento, cercano la ricetta fantastica, pazzesca, la formula magica, ma senza la conoscenza, ma che base, proprio sul metabolismo, su come funziona l'insulina, sul ruolo che possono giocare gli alimenti sull'umore, come dicevate poco fa, ed è fondamentale. Quindi il primo pezzo veramente importante per cambiare la mentalità è far sì che le persone inizino a conoscere come il loro stesso cervello conosce l'informazione e l'elabora. E quindi, ad esempio, l'intervento di esperti che possa spiegare loro come funziona il cibo, che impatto può avere sulla vita, è il primo passo fondamentale che di fatto avete già appena eseguito. Sì, cerchiamo di farlo un po' tutte le domeniche, ogni giorno, perché insomma l'alimentazione è un po' la base, quella è quell'ingrediente che nutre la nostra salute fisica e psichica. Siamo forse troppo bombardati da informazioni, tanto che le riceviamo ma non le metabolizziamo. Uso questa parola perché è giusto, siamo in tema, e quindi tutti noi sappiamo che cosa dovremmo mangiare, non mangiare, o lo sappiamo, poi alla fine comunque ci facciamo un po' prendere dalla pigrizia, dalla fretta, dal intanto insomma faccio come posso. Allora da lei abbiamo bisogno proprio di 2 o 3 così trucchi, segreti, mosse per cambiare un po' la nostra mentalità nei confronti del nostro stile alimentare. Benissimo, ecco, partendo proprio dando a questo punto per scontato che il primo passo fondamentale lo stiamo già facendo, ed è proprio quello di far sì che la persona, invece di partire con l'azione, ecco, adesso leggo il libro e non vado manco a leggere il libro, ma vado solo, perché molti fanno così, vado alla parte finale dove c'è cosa mangiare lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato, domenica, saltando tutta la parte su metabolismo, eccetera. Quindi primo punto quello. Secondo punto, stare attenti alle scivolate. Le scivolate è un termine, diciamo, che è più friendly in realtà, in termini diciamo più scientifici si dovrebbe parlare di bias, di distorsioni cognitive, emotive, comunque io le chiamo più simpaticamente, diciamo, scivolate nel percorso, che avvengono perché la mente bombardata, appunto ti ho detto un attimo fa, da troppe informazioni, tende a fare le sue euristiche, le sue piccole scorciatoie per arrivare magari al dunque. Me ne dica un paio, che così io mi riconosco sicuramente. Una prima scivolata nel mondo dell'alimentazione, oppure del mantenimento di un certo stile, è quella dell'eccesso di confidenza sulle proprie capacità, soprattutto quando è spalmata sul futuro. Tradotto significa: no vabbè, ma adesso, adesso mangio come mi pare, chi se ne frega, tanto so che poi l'ultima settimana di giugno come facevamo a scuola quando pensavamo di recuperare la media con le ultime interrogazioni, gli ultimi compiti in classe. Ci fermiamo e ritorniamo subito dopo insieme. Mi raccomando, non mettetevi a dieta, forza, un altro piatto di tagliatelle della nonna Pina. A tra poco. La bufala in tavola. Siete restati con me, avete fatto bene. C'è Stefano Arzegovesi oggi per parlare di cose buone da mettere in tavola, cose buone che ci aiutano a stare bene, dottor Arzegovesi, perché la dieta noi non la vogliamo fare, insomma, no. Dieta, né di domenica né di lunedì. Dieta come stile di vita tutti i giorni, dieta come regime rigido mai. Né per il corpo né per la mente. Quindi tranquilli, e soprattutto oggi cerchiamo, con l'aiuto di Stefano Santori, che è un coach, di usare la testa per fare quei cambiamenti che possono essere molto gustosi al nostro stile alimentare, ma come dicevamo dobbiamo fare il primo passo, e quindi informarci adeguatamente, e poi, dottor Santori, evitare le scivolate, o se scivogliamo rimetterci un po' in piedi. Esatto, esatto, assolutamente, anche perché l'approccio di capire dov'è che scivoliamo, diciamo che è preventivo: più capisco dove posso cadere, meno cado, e se cado mi posso rialzare sapendo che è una semplice scivolata. Un'altra tipica è quella delle persone che, quando hanno deciso di mantenere un certo regime più sano, più intelligente, che cosa fanno? Entrano in quella che io chiamo la caduta del tanto ormai, ovvero vado a cena, mi sono proposto di stare attento, non, magari non ossessionato, ma di mangiare bene, poi se il diavoletto dell'amico mi fa bere troppo, mi fa mangiare il dolce, a quel punto dico, vabbè, dai. Tanto ormai. Ma il dottore Zegovesi cosa ci dice? Quando diciamo tanto ormai vuol dire che è giusto, è troppo. Due cose. Di fatto la scivolata presuppone che noi abbiamo un atteggiamento troppo competitivo rispetto a quello che mangiamo, e questo è già un errore, cioè l'idea che dobbiamo darci dei traguardi, delle mete legate a raggiungere un certo traguardo di peso o di chili. Quindi vuol dire, pensiamo al fatto che la scivolata ci sta dicendo come camminiamo adesso e non che dobbiamo arrivare là in fretta o fare un certo record. Il tanto ormai è figlio, direttamente figlio prediletto di uno schema rigido. Se uno schema è rigido, basta che io esca di pochissimo dallo schema rigido, allora tanto ormai vado dall'altra parte e mangio di tutto. Se lo schema è flessibile, accetto il consiglio dell'amico diavoletto, ma magari amico vero che vuole farmi sentire un sapore, un profumo che non conosco da tanto tempo, e nessun tanto ormai. Ho mangiato una cosa di più, ma ci sta tranquillamente all'interno della mia settimana, del mio mese. Rossella direbbe domani è un altro giorno. Dottor Santori, un altro consiglio per chi magari proprio ascoltando oggi la bufala in tavola accarezza l'idea di dire sì, dai, è primavera, ci sono dei prodotti squisiti, la natura offre un sacco di verdure, di prodotti buoni, freschi, ricchi di gusto. Magari faccio dei ritocchini, ma è ancora lì indeciso di dire sì, però ma ce la farò se poi... Sì, dunque, un altro aspetto fondamentale, tra l'altro ascoltavo proprio con piacere tutta la parte che riguarda le informazioni, e il ruolo del nutrizionista è fondamentale, perché l'altra parte che può aiutare a scivolare meno o non scivolare è prendere subito coscienza delle credenze, le convinzioni che ci sono, che sono un pezzo fondamentale del mindset, che sono convinzioni spesso radicate nel passato, magari chissà sentito dire da chissà chi, che dice ah no, allora la convinzione a questo punto, ecco, infatti siccome... non a caso, dottore, lei sembra che faccia un po' la pubblicità alla bufala in tavola, perché proprio ci chiamiamo così proprio perché oltre a dare informazioni cerchiamo gli esperti più autorevoli sul mercato, ma cerchiamo proprio di scalzare, di sbugiardare, di sbriciolare le bufale, le false credenze. Allora, con tutto questo pacchetto di attrezzi, cerchiamo magari di guardare il nostro stile alimentare con nuovi occhi. Dottor Santori, io la ringrazio per essere stato con noi, le auguro una buonissima domenica, un buon pranzo e ci sentiamo presto. Grazie, a prestissimo, un buon proseguimento. Vero che ti amo ancora, vero che ti ho tradita, falso, è stato un gioco falso, io lì non c'ero, vero che sei la sola, vero che ti ho ingannata, falso, se non mi credi giuro sulla mia vita. Bene, allora spaziamo il campo ad alcune false credenze che, come diceva il dottor Santori, non hanno alcun fondamento scientifico, ma che possono condizionare le nostre scelte. Dottor Zegovesi, lei è pronto? Faccio ascoltare. Quelli che pensano che per attivare il metabolismo si debba mangiare poco e spesso. Non è nella natura dell'uomo. L'uomo nasce e cresce, diciamo, si sviluppa per abituarsi ad avere degli intervalli tra il pasto e il non pasto, quindi per abituarsi a digiuni brevi. Quindi facciamo 3 pasti al giorno, se ci va, se facciamo un'attività sportiva, se abbiamo un momento di grande impegno, facciamo tranquillamente uno spuntino, anche come pausa mentale, ma assolutamente il rischio del poco e spesso in realtà è che poi lo sneccare, come si dice, cioè lo spiluccare poco e spesso in realtà significa che nel corso delle 24 ore mangiamo molto di più. Quelli che pensano che il salto del pasto, se effettuato con costanza, costringa l'organismo a utilizzare come energia i depositi di grasso. Salto del pasto vuol dire digiuno. Digiuno vuol dire che non possiamo morire con gli zuccheri bassi, quindi svenire a terra, e quindi dobbiamo produrre cortisolo per stare svegli e per continuare a fare le cose. Un cortisolo alto significa mettersi nella condizione molto più facile di non essere nella condizione di perdere peso. Attenzione però, massimo rispetto per il digiuno, che se ci pensiamo è presente nelle tradizioni laiche e religiose di tutto il mondo, ma sempre comunque come un digiuno periodico, cioè deve essere per brevi periodi, di solito non totale ma parziale, il classico giorno di magro, e deve essere soprattutto, se abbiamo una qualunque tipo di malattia, con il parere del medico, perché il digiuno, se abbiamo una qualunque malattia, il diabete, malattia cardiovascolare o altro, è pericoloso. quelli che pensano che è tutta colpa della tiroide, sempre. Povera tiroide. Io sento persone che vengono da noi per problemi di obesità, quasi sempre ci dicono: sarà la tiroide o sarà il ciclo, se sono delle donne. In realtà la tiroide, poverina, non ha alcun tipo di ruolo nella maggioranza delle obesità, soprattutto perché se noi abbiamo una tiroide lenta, più che mettere su grasso, mettiamo su grasso e liquidi. Il cosiddetto mix edema è un misto di tessuto e di liquidi. Quindi la tiroide, nel 99% dei casi di una persona che non riesce a perdere peso, funziona benissimo. E quindi non andiamo a stimolarla con questi prodotti assurdi, grazie al cielo quasi tutti adesso messi fuori legge, che andavano a stimolare violentemente la tiroide per dimagrire e facevano dei danni anche irreversibili. Quelli che pensano che dopo gli ANTA il metabolismo funzioni a velocità ridotta e quindi non ci sia niente da fare. No, diamo speranza a tutti dopo gli ANTA, noi compresi. Dopo gli ANTA sicuramente, come tutte le nostre funzioni, abbiamo un lieve ma quasi impercettibile rallentamento. Questo vuol dire che saremo meno veloci a correre, meno veloci a trovare la parola o la memoria, ma nonostante questo avere un'assoluta efficienza cognitiva, fisica e anche metabolica. Certamente la capacità di mangiare mezzo chilo di pasta, come magari facevamo quando avevamo 18 anni, non ce l'avremo quando avremo 50, ma chi ce lo fa fare di mangiare mezzo chilo di pasta? Ma non pensiamo in alcun modo di essere in una condizione di così precario funzionamento metabolico. Non a caso lei ha citato la pasta. Mi piace perché mi dà un assist straordinario, piace anche a Filippa Oreggi. Ormai c'è, praticamente siamo fidanzati con Filippa Oreggi, perché io registro ormai sempre con lui. E non lo so, Filippo, non so che dirti, ti tocco io. Comunque, dottor Arzegovesi, la pasta. Noi sappiamo che tante persone, proprio per arrivare rapidamente al risultato, cosa fanno? Vabbè, adesso cambio, si dice, mi metto a dieta, cosa faccio? Tolgo pane, pasta, carboidrati, via. Via tutto. Ecco, in realtà, per fortuna, revisioni, ricerche, studi e quant'altro ci aiutano a mandare dei messaggi forti e chiari e a rivalutare anche l'importanza dei carboidrati, semplici e complessi. E quindi la pasta si può mangiare, dottor Arzegovesi, perché bandirla? Assolutamente si può, si deve mangiare, mi viene da dire, perché il classico inciampo di qualsiasi persona che vuole mettersi in forma è dire: elimino i carboidrati e quindi mi butto in una delle migliaia di diete più o meno iperproteiche. La questione, come dice questo studio molto bello uscito da poco, uno studio canadese, dice: il problema non è la pasta, esattamente come il problema non è la farina, il problema è quanto noi mangiamo qualcosa che venga o meno assorbito velocemente dal nostro organismo. Quindi, se noi facciamo una dieta con un cosiddetto indice glicemico basso, che vuol dire mangiamo cose che vengono lentamente assorbite dal nostro organismo, la pasta va benissimo. Diciamoci di più, facciamo un minimo di orgoglio. Diciamoci. Orgoglio italiano. Diciamocelo con grande forza. La pasta, intesa la pasta italiana, intesa di grano duro, intesa cotta come la cuoce un italiano, possibilmente del sud che la cuociono meglio che al nord, ma adesso anche al nord siamo bravi, molto al dente, ha un indice glicemico molto basso. A questo punto il problema non è che io mangio la pasta, il problema è che io mangio una pasta magari cotta male, magari fatta col grano tenero, grazie al cielo in Italia non è permesso, però all'estero sì. E allora sì che la pasta diventa un problema, ma esattamente come diventa un allora, problema lo zucchero. Fermiamoci qua, perché molti dei nostri amici staranno proprio buttando la pasta. Siamo ancora in tempo per così aggiustare un po' il tiro, per avere una pasta con un indice glicemico basso e quindi cotta al dente. Ma quando lei dice cotta al dente, che cosa sta dicendo esattamente? Cotta al dente vuol dire che quando la mordiamo sentiamo che c'è un cuore che ancora oppone una resistenza un po' più forte. Se noi la guardiamo, se vogliamo fare i pignoli, vediamo che nel cuore della pasta, se è uno spaghetto proprio il puntino al centro, se è una pasta corta come una linea, è ancora un pochino bianca. Quella è una cottura al dente che viene assorbita, proprio perché è un pochino più dura, più lentamente dai nostri enzimi digestivi, e quindi automaticamente tutto è più lento. Quindi scolatelo un po' prima. C'è il tempo di cottura sulle confezioni, è attendibile secondo lei per avere questa pasta cotta al dente, quindi con un indice glicemico basso? O se sulla confezione leggo 8 minuti, 12 minuti, io tengo indietro di un paio di minuti per essere tranquilla? Meglio un paio di minuti indietro. Ci sono ormai marche che segnano tot minuti per cottura al dente e tot minuti per cottura normale. Nel dubbio stiamo un paio di minuti indietro, ricordiamoci che quando noi la pasta la scoliamo, la pasta continua a cuocere. E quindi di fatto la temperatura rimane alta, gli amidi continuano comunque a gelatinizzare. Quindi se noi stiamo un paio di minuti indietro, chiaro, quando lo assaggiamo non deve essere certo, l'effetto proprio croccante come dicono no, alcuni. Dottore Arzegovesi, e poi sa che cosa ho imparato? Me l'ha proprio suggerito lei, poi chiudo perché dobbiamo fare una pausa. Io la pasta la condisco molto, che sia verdura, che sia il sugo di rago. Anche Valentina Ternullo, che lavora con me, lei è sarda e la condisce anche lei parecchio. Ormai c'è questo trio che si muove. E buon quindi gustai. Quindi molto condita. Ben condita, tanta verdura, ricordiamoci anche l'olio, perché noi se mettiamo l'olio a maggior ragione rendiamo più lento l'assorbimento degli zuccheri. Allora dai, scolate sta pasta e noi facciamo una pausa, ma ritorniamo subito dopo insieme con voi. Quale sarà la professione più richiesta in futuro? Quali nuovi lavori 4.0 esistono già? Come ci sono arrivati e dove si sono formati quelli che li svolgono? Sono Anna Marino e con I lavori di domani vi spiego in concreto cosa fanno e quanto guadagnano blockchain designer, strategist, data scientist, ma anche l'enologo o il magazziniere 4.0, tutte le figure più richieste nei prossimi 5 anni, ma che nell'80% dei casi le imprese non trovano. Insieme capiremo il lavoro che c'è e i lavori di domani. In onda ogni domenica dopo il GR delle 8 e i dettagli nella versione podcast su radio24.it. Aiutiamo. Il Sole 24 Ore, insieme a Radio 24 e Radio Cor, sostiene le strutture ospedaliere sul territorio impegnate nell'affrontare l'emergenza coronavirus. L'ospedale di Brescia ha bisogno di te e per noi è la notizia più importante di oggi. L'ASST Spedali Civili di Brescia, con i suoi medici e tutto il suo personale, sta lavorando senza sosta per affrontare il Covid-19. Aiuta anche tu con una donazione straordinaria per affrontare tempestivamente questa emergenza. Per tutte le info, s24ore.it/aiutiamo. La bufala in tavola. Avete scolato la pasta? La state condendo generosamente con un sugo di verdure, diceva il dottor Arzegovesi. Ricordatevi l'olio, però può essere anche un ragù. Un ragù. Può essere domenica di carne o di pesce. Domenica si fa tutto. Parliamo anche della quantità. Quando voi parlate di porzioni, noi non è che abbiamo sempre ben chiaro il concetto. Un piatto, un piattone, un piattino. Dottor Arzegovesi, come ci organizziamo? Diamo qualche numero. Premessa, diamo il numero solo per orientare il nostro occhio. Nel senso, poi dopo è importante non impazzire a seguire i numeri, che è una cosa che poi non ci fa bene in termini proprio di ossessione. Ma quanto siamo liberi! Quindi libertà, ma libertà con un occhio attento e allenato. Si dice 80 grammi, che è la porzione standard per una persona che deve mantenere il peso, che ha una sufficiente attività fisica, un po' meno, circa 60, per una persona che invece vuole perdere peso. Per tutti i tipi di cereale, che può essere pasta o riso, stiamo parlando di cereali bianchi. Sì. Se parliamo di cereali integrali, riso integrale, farro, miglio, pasta grano saraceno, integrale. Pasta integrale, eccetera, in quel caso si può fare un 10 grammi in più, perché essendo molto più ricca di fibra. Vabbè, quindi dei bei piattoni. Vengono dei piatti decisamente ricchi e voluminosi. Il piatto classico, quindi non pensiamo ai piatti da ristoranti che possono essere grandi come un tavolo, ma dei piatti normali, quindi dei piatti, il classico piatto italiano, la fondina, noi vedremo che se quello che va in lavastoviglie. Che va in lavastoviglie, che si lava facilmente, che non ci dà impicci, è un piatto che se noi ci mettiamo i nostri 70-80 grammi tendenzialmente è un piatto non strapieno, ma che arriva diciamo ai bordi, quindi anche il nostro occhio a quel punto riesce a fare una porzione corretta senza impazzire con la bilancia. Sue, she know just what to do. I got a gal named Sue, she know just what to do. She roll me to the east, she roll me to the west. She's a gal that I love best. Tutti frutti, oh Rudy. Tutti frutti, oh Rudy. Tutti frutti. E poi ci sono sempre le famose 5 porzioni di frutta e verdura, più verdura di frutta, ormai abbiamo imparato un 3 più 2 l'ideale. Anche lì le porzioni, vuol dire anche l'occhio, ecco, decide, vuole la sua parte come porzioni, considerando anche che adesso tra poco arriverà una frutta particolarmente dolce, buonissima, pesca, albicocche, frutta, quindi con un alto contenuto zuccherino, ma anche poi di acqua. Come ci orientiamo e organizziamo? Importantissimo educare l'occhio sulla verdura, che ha porzioni che rispetto a quello che il nostro occhio è abituato sono più alte. Quindi consideriamo 100 grammi per la verdura cruda, 250 grammi per la verdura da cuocere, quindi poi che mangeremo cotta. Sono le porzioni più abbondanti di quelle che siamo abituati a vedere nel contorno del nostro piatto. Il contrario per la frutta. La frutta dobbiamo mangiarne 150 grammi al netto degli scarti, che vuol dire se mangiamo una pesca, un'albicocca dietro l'altra, può essere un po' meno di quello che ci verrebbe da mangiare. Anche in questo caso il consiglio che do sempre è facciamoci la porzione prima, cioè non lasciamo lì il cesto con la frutta, perché facilmente fa caldo, ci piace, è buona, è saporita, profumata e ne mangiamo quantità molto alte. Facciamo in modo di avere la nostra porzione, le nostre 3 albicocche, le nostre 2 pesche piccole, la nostra pesca grande, basta. E non lasciamo lì a portata di mano l'intera scorta della frutta di casa. Ecco, facciamoci un po' le nostre porzioni, così abituiamo l'occhio e non diventiamo schiavi della bilancia. Mai comunque, della bilancia, mai dei numeri. Non ci piace. E a proposito di quantità, io vorrei parlare di proteine, perché lo sappiamo, un po' come i carboidrati, anche le proteine dividono, c'è chi ne consuma poche, c'è chi ne consuma troppe, chi consuma solamente quelle di origine vegetale, insomma tanta confusione. E anche ne abbiamo tante volte parlato, le proteine sono state proprio la base di quelle diete iperproteiche che tanto sono andate di moda negli scorsi anni, ma di cui ad ogni stagione vengono proposte diverse varianti. C'è uno studio che voglio commentare con voi, perché io credo che sia importante, come dicevamo in apertura di trasmissione, sottolineare che quello che diciamo alla bufala in tavola non è il pensiero del dottor Arzegovesi o del nutrizionista del giorno, ma si basa su dati di ricerche, studi effettuati su un campione rappresentativo della popolazione. Bene, pensate che adesso si parla di nuovo di proteine, e il consiglio per tutti, maschi e femmine, giovani e anziani, è quello di consumare, mi spiace, veniamo ai grammi, ma li traduciamo, 0,8 grammi di proteine per ogni chilo di peso corporeo. Questa è la dose giornaliera raccomandata ed è la dose stabilita da numerose autorità sanitarie nel mondo. Dottor Arzegovesi, io non vado tanto d'accordo con i numeri, ma 0,8 grammi di proteine per ogni chilo di peso corporeo, tradotto in un uomo, in una donna adulta, in un bambino, cosa significa? Tradotto significa tendiamo a mangiare più proteine di quelle che ci servono. Questo perché non consideriamo che le proteine ci sono anche negli amidi, perché la pasta comunque ha il 12% di proteine, così come il pane e tutto. Che vuol dire? Quando facciamo un piatto, la proteina deve essere esattamente come quando eravamo più poveri e costava di più, deve essere in una quantità che occupa meno della metà del nostro piatto piano, quindi il nostro classico piatto da secondo, che vuol dire ragionevolmente pensiamo un etto se è della carne, un etto e mezzo se è pesce, un paio di uova se sono uova, 30-40 grammi se sono legumi secchi, 50 grammi se è un formaggio stagionato, e vi assicuro che è pochissimo se noi pensiamo invece io a mangiare un pezzettone. Io però in diretta, questo è il mio termometro della bufala in tavola, non può essere che Filippo non bastano queste il dose. Il pezzettino non basta, bisogna mangiarlo più piano, per cui bisogna cercare di mangiare mastica Filippo, lentissimamente. Come si dice, fatelo durare un po'. Ma a proposito di proteine, è interessante quanto sottolinea lo studio, che tra l'altro è stato pubblicato su JAMA, che è un po' una bibbia, giusto? Importantissimo. Che spesso agli uomini anziani viene suggerito di consumare una dose di proteine maggiore di quella solitamente consigliata, di questi famosi 0,8 grammi, insomma dalla fettina, del pezzo di pesce, delle 2 uova, perché dà forza, no? Fa muscolo la proteina. E allora dei nostri nonni vogliamo parlare con un amico, lo sentite spesso al mattino con me, è Francesco Landi. Buongiorno professore. Buongiorno, buongiorno a tutti. Primario di riabilitazione geriatrica al Policlinico Gemelli di Roma. Professore, intanto noi vogliamo parlare anche della dieta dei nostri nonni, perché la tavola della domenica non è la tavola della domenica se non ci sono i nonni, e anche della loro dieta vogliamo parlare. Quindi, queste proteine alle persone che hanno superato i 65 anni, puoi dire nonni, anziani, insomma l'età anagrafica, età biologica, ma è il pane suo, dottor professor Landi, quindi mi spieghi un po' questo studio e questa, e come lei valuta questa tendenza e questi consigli di alcuni esperti di aumentare il consumo proteico nelle persone che hanno superato una certa età. Lo studio è molto chiaro, tra l'altro straordinariamente rigoroso, da un'istituzione, la Brigham Women, una istituzione molto importante, appunto, di Harvard University, quindi assolutamente possiamo fidarci, dice lei, prof. Decisamente. È chiaro che, come tutti gli studi scientifici, vanno letti un attimino con attenzione. Qui si tratta, come dire, di uomini ultra 65 anni, quindi già stiamo parlando di un'età anagrafica, di persone che non sono anziane, perché oggi ormai sicuramente all'ultra 65 anni non possiamo definirlo biologicamente una persona anziana, e persone che sono in buona salute, quindi che non sono in una situazione, tra virgolette, di emergenza o di esigenze particolari. In questo caso, quando si dice 0,8 grammi di proteine per chilo di peso corporeo, tra l'altro dobbiamo intendere il peso corporeo ideale, perché altrimenti avremmo già un calcolo sbagliato, perché chi è in sovrappeso o è obeso in quel caso avrebbe, come dire, la moltiplicazione per un peso che non è quello normale. E questo quindi non questo... ci avevo mai pensato. Quindi se io dovessi pesare, non so, 60 kg, ne peso 70, quello 0,8 peso ideale, ma cosa mi dice? Certo, perché altrimenti, come dire, certo, ognuno fa quello che vuole. Perché se no, se appunto una persona che pesa 100 kg stiamo moltiplica per 100, ma non sono i suoi 100 kg normali. Siamo già in una situazione di sovrappeso, se non addirittura di obesità, quindi bisogna stare sempre molto attenti. 0,8 grammi è lo standard, tra l'altro riconosciuto dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, che è quello a cui tutto il mondo fa riferimento per persone, appunto, che sono in buona salute, quindi con una dieta equilibrata, scegliendo ovviamente tra le proteine sia di origine animale che di origine vegetale. Generalmente teniamo presente che questo è anche un dato importante: nella dieta mediterranea, nella nostra dieta, il consumo, per chi quindi non ha una scelta solo vegetariano o se non addirittura vegana, generalmente variando l'alimentazione noi abbiamo un 50% più o meno di origine animale e 50% di origine vegetale, perché come giustamente si diceva prima, le proteine sono anche in una percentuale nella pasta, nel pane, nei legumi, quindi diciamo è una fonte molto molto varia. L'unico problema, come dire, che noi dobbiamo, quando leggiamo questo dato e quando noi molto spesso diciamo che gli anziani hanno bisogno di una maggiore quantità di proteine, sono le situazioni, come dire, un po' a rischio. Faccio un riferimento semplice, non voglio andare nelle grandi patologie, ma per esempio l'anziano che si frattura il femore è in una situazione di emergenza, dello stress chirurgico, è in una situazione in cui si prospetteranno davanti almeno 30-40 giorni di riabilitazione. In quelle situazioni, consensi anche europei e raccomandazioni più o meno in cui tutto il mondo è d'accordo, consigliano di aumentare un pochino quell'introito proteico, di portarlo a un grammo pro chilo die, cioè per chilo di peso corporeo, sono addirittura anche a 1.2, cioè di andare ad incrementare. Insomma, questo... era un po' il consiglio che si dava ai bambini, un po' gracilini, che quando le mamme e le nonne dicevano dai mangia questa un po' la carnina che diventi forte. Funziona anche agli anziani nelle situazioni in cui stanno vivendo una condizione di fragilità. Ecco, esatto, è corretto, esatto. Capito? Assolutamente, e poi noi diciamo sempre che gli anziani dovrebbero aumentare, è un po' anche un compenso, perché noi invece sappiamo benissimo che gli anziani riducono drasticamente l'introito proteico, cioè l'introduzione di proteine, e in particolare riducono proprio quelle di origine animale. Sì, perché magari sono più difficili da masticare. Io, professor Landi, ho sempre questa, così, do sempre questa raccomandazione, spesso gli anziani magari mangiano meno perché sono soli, allora invitiamoli a pranzo con noi, anche se non sono i nostri nonni. Ciascuno di noi può adottare un amico, un conoscente anziano, invitiamoli alla tavola della domenica, perché in compagnia anche l'anziano, anche quello che magari a casa mangia meno, non ha in qualche modo appetito, alla tavola della bufala in tavola si mangia sempre molto volentieri, e invitando un anziano a tavola sicuramente questo è un nutrimento che fa bene alla sua salute. Professor Landi, mettiamo il suo bollino, un anziano a tavola, non solo alla domenica, per mangiare tutti insieme. Grazie professor Landi, io devo fermarmi, intanto la salute l'aspetto per un risveglio mattutino, grazie prima che voi, lei vada in palestra. Buona giornata. Grazie. Il giorno in cui siamo diventati grandi per uno schiaffo o una carezza, la volta in cui abbiamo conosciuto la morte, tutte le nostre prime volte, ma anche tutte le nostre ultime, l'estate del primo amore o il traguardo della maratona che non pensavamo di poter tagliare. Ogni nostra storia, piccola o grande, racconta di una linea, un confine che abbiamo varcato, una soglia oltre la quale siamo passati, a volte senza accorgercene, altre dopo mesi o anni di lavoro. Linea d'ombra non si limita più a raccontare i vizi capitali, ma tutte quelle storie che hanno segnato un confine nella nostra vita. Le linee d'ombra che nel bene o nel male ci hanno fatto diventare le persone che siamo. Scrivetele in una o due pagine e inviatecele a lineedombra@radio24.it. Noi le prendiamo e ci costruiamo intorno a una puntata. Linee d'ombra di Matteo Caccia, da lunedì al venerdì alle 15 e il sabato alle 21:30 su Radio 24. La bufala in tavola. Dieta? No grazie, preferisco mangiare meglio, dottor Arzegovesi. Questo senza è un po' dubbio il succo della puntata. La giornata ci dice questo, ma facciamolo tutti i giorni, non solo la domenica. Ci sono tanti motivi per iniziare a mangiare meglio, per cambiare un po' il nostro stile alimentare, per tornare in forma, per mantenersi in salute, ma si può e si deve soprattutto mangiare meglio se si accarezza l'idea di diventare genitori. C'è uno studio molto bello apparso su The Lancet che dimostra che lo stile di vita della coppia, compreso quindi anche quello alimentare, scrive la salute del nascituro. E noi vogliamo commentare questo studio per dare soprattutto indicazione alle coppie che stanno così pensando di diventare genitori. Abbiamo in linea con noi il dottor Giuseppe Morino, che è responsabile di educazione alimentare al Bambino Gesù di Roma. Buongiorno dottore. Buongiorno a lei e a tutti i radioascoltatori. Allora dottore, che cosa racconta questo studio e soprattutto come possiamo tradurre le indicazioni in consigli pratici per chi ci sta ascoltando? Abbiamo parlato della dieta degli anziani e adesso vogliamo parlare della dieta dei futuri genitori, perché il loro stile di vita impatta molto sulla salute del nascituro. Prima si diceva la mamma deve mangiare meglio, ancora un tempo si diceva addirittura deve mangiare per due, adesso invece le mettete anche pure a dieta. Poi si diceva non solamente i 9 mesi di gravidanza ma anche quelli prima, adesso si arriva ai 1000 giorni prima, cioè questa ancora prima del concepimento la mamma e il papà, la coppia, devono pensare che loro seminano la salute del loro bambino. Dottor Morino. Allora, intanto dobbiamo pensare a stare bene e questo ovviamente vale a tutte quante le età. Stare a bene è in relazione a quanto ci muoviamo e in relazione a quello che mangiamo. Lei giustamente parlava di dieta prima, ma contemporaneamente riferiva a quello che è il significato della parola dieta, che è stile di vita, certo, e non è più prescrizione. Quindi intanto cominciamo col dire questo: tutto di quello di cui noi stiamo parlando si riferisce allo stile di vita e quindi all'abbinamento di una corretta alimentazione con il movimento. Cosa sapevamo prima e cosa sappiamo adesso? Noi prima sapevamo che a seconda di quello che mangiava il bambino nei primi 3 anni anni di vita, questo influiva sulla sua crescita, su come diventava alto, su quanto aumentava oppure no. Poi abbiamo cominciato a capire che questo non bastava, ma che riguardava anche la donna in gravidanza, come diceva giustamente lei, si diceva non mangiare per due, ma anzi stare attenta a non aumentare troppo di peso, perché se aumenti troppo di peso ci sono problemi, il bambino diventa troppo pesante. Che cosa sappiamo anche adesso? Che questo è valido, ma è valido anche prima del momento in cui la donna entra in gravidanza. Quindi quando una coppia decide di avere un figlio deve mettersi nelle migliori condizioni. Quali sono le migliori condizioni? Innanzitutto, dal punto di vista nutrizionale, non avere né deficit né sovrappeso, quindi avere uno stile di vita attiva per cui se ho qualche chiletto in più riesco tranquillamente a non averlo. Secondo, devo avere un'alimentazione completa e varia. Qui siamo nel bel paese che ci ricorda la tradizione mediterranea e probabilmente è semplicemente questo, ritornare ad un'alimentazione varia, in cui la colazione è sempre presente e la domenica, ma anche tutti quanti i giorni non la salto, in cui frutta e verdura sono certo, presenti. Certo, queste sono un po' le indicazioni di una dieta varia ed equilibrata, ma mi sembra, dottor Erzegovesi, che così commentiamo anche col dottor Morino, che l'indicazione sia iniziate a pensarci prima e presto, dottor Erzegovesi. Sì, c'è una disciplina molto emergente, si chiama epigenetica, che a me piace molto, dove fondamentalmente si dice, noi abbiamo un DNA, ma l'espressione, quindi come questo DNA poi lavora, è qualcosa che è comunque collegata alle nostre abitudini. Cosa vuol dire questo? Che se noi abbiamo delle abitudini, in questo caso alimentari e di stile di vita buone, queste cose non solo fanno bene a noi, ma sono cose anche trasmissibili ai figli, e i figli le trasmetteranno ai nipoti. Quindi cosa vuol dire questo? Mettersi nelle condizioni migliori di stile di vita, ma anche di... pensiamo anche all'assetto mentale, pensiamo a cosa può voler dire l'essere genitori pensando di come accogliere il figlio, come accudirlo e tutto il resto, ci rende persone migliori, ma la cosa più bella che l'epigenetica dice, se noi cerchiamo di essere delle persone migliori, i nostri figli saranno delle persone migliori. Questa è una cosa che a me piace molto. Molto, dottor Morino? La cosa interessante dell'epigenetica, e concordo perfettamente con il collega, qual è? Che noi pensavamo che prima tutti i caratteri fossero ereditari, no? Tramite DNA. Invece abbiamo scoperto che il nostro stile di vita va a influire proprio sull'espressione di quel DNA che è poi l'RNA. Che cosa significa in altri termini? Che a seconda di com'è lo stile di vita mio di genitore o io di coppia che devo avere poi un figlio e quindi come sono abituato al movimento, quanto mangio eccetera, va a influire sullo sviluppo di quello che sarà il mio bambino, non solo in termini di crescita ma anche di quelle che è la presenza di patologie metaboliche oppure nell'età futura. Quindi ancora una volta, dottor Morino, siamo quello che mangiamo e anche quello che mangiamo influenza anche la salute dei nostri figli. Meditate ragazzi, grazie dottor Morino. Grazie a tutti. Buona giornata. Un saluto e buona giornata a voi. Noi ci stiamo avviando al nostro appuntamento Senti come mangio, che dottor Erzegovesi oggi è dedicato ai piselli intesi come ortaggi. Senti come mangio. Sì, perché parlando di bambini questa specifica era d'obbligo, ma non si butta via niente del pisello. Del pisello dobbiamo considerare la preziosità del baccello, sia per capire quanto è buono quello che mangiamo, sia anche per aggiungere sapore e dolcezza al nostro piatto. Intanto sono legumi e quindi proteine vegetali. Legumi freschi, proteine vegetali, che vuol dire che possiamo mangiarne una quantità abbondante, proprio perché sono freschi, sono più ricchi d'acqua dei certo legumi secchi. Certo che sgranare per avere una porzione di piselli bisogna avere una... stare lì e sgranarli tutti ad uno, a me piacciono moltissimo anche crudi, certo non ne mangio delle piattate crude, ma qualcuno crudo, sono freschi, vanno benissimo, buoni, sono crudi. teneri piccolini, quindi armiamoci di pazienza, secondo me sono di quei lavori che comunque calmano anche un po' lo stress, sì. Quindi vieni a sgranare piselli con me, assolutamente, ecco. Sgraniamo, nello sgranare pensiamo a un momento di grande concentrazione e di grande quasi meditazione, quindi tutt'altro che tempo perso. Ecco, pensa come cerchiamo di così coinvolgere gli amici a lavorare per noi. Guarda, ti propongo questo esercizio di meditazione. Mettiti lì, sgrana piselli. Tutti ce ne tavola, sono 2 chili. Grandi e piccini, tutti a tavola a sgranare piselli. Allora, è un momento spesso abbiamo, di grande condivisione. Abbiamo detto che non si butta via niente, perché che cosa ci propone lei, dottor Erzegovesi, per prendere da questi legumi freschi il meglio? Ecco, pensiamo a risi e bisi, cioè riso e piselli è un piatto classico della tradizione. Della molto primavera. Si mangia nel a Venezia si mangia per la festa di San Marco, quindi proprio 25 aprile, da poco passato. Cos'è la cosa importante di Risebisi? È un piatto eccezionale da un punto di vista del sapore, pur essendo un piatto molto semplice, ha un bilanciamento perfetto tra carboidrati a basso indice glicemico, perché vedremo come cuocere anche il riso per dargli un basso indice glicemico, con dei legumi freschi di stagione e con grande dolcezza, quindi legumi che hanno un sapore tutt'altro che terroso, come a volte certi altri legumi hanno, e soprattutto dove non si butta via niente. Per quindi il baccello, se sono baccelli chiaramente segnati o secchi, buttiamoli via senza problemi. Se sono baccelli ancora freschi, ce ne accorgiamo perché quando lo apriamo sentiamo che la patina interna rimane ancora molto umida. E l'umido vuol dire che c'è ancora una freschezza, ma che una freschezza ma vuol dire anche tanto sapore. Ricordiamoci che la componente esterna dei vegetali è la componente che si difende di più dalle avversità del clima e quindi diventa più ricca di antiossidanti. Quindi quel colore verde sono tutti antiossidanti, è clorofilla, c'è magnesio, ci sono tante cose. Quindi sgraniamo i nostri piselli, prendiamo i baccelli, spezziamo via le punte dei baccelli e tiriamo via il filo e tiriamo via quella patina che sta all'interno. Una volta tolta la patina che sta all'interno, ci lavandola si pela? No, si pela proprio come se venisse via una pellicola. Sì. A questo punto teniamo i baccelli, li facciamo a pezzettini piccoli, teniamo i nostri piselli. Via con il riso. Vialone nano, riso classico della tradizione veneta, ma anche ma un carnaroli. Piace, guarda anche, che insomma, mi piace un nutrizionista che cucina, perché lui cura con il cibo. Cibo, ma con gusto. Con dicevamo. Gusto, quindi cura in cucina. Un vialone nano, cioè un riso, tra l'altro con un ottimo contenuto di amilosio, quindi con un indice glicemico un pochino più basso. Lo facciamo tostare in padella. Filo d'olio, se vogliamo olio e burro, secondo me un pochino di burro nel Risebisi ci sta, perché i piselli hanno bisogno di dolcezza e non della sprezza dell'olio d'oliva puro. Guardate un po' come vi facciamo mangiare. Facciamo tostare il riso, rapidamente tostare, mettiamoci un po' di cipolla di scalogno tagliata finissima, perché il protagonista deve essere il pisello. A questo punto cosa dobbiamo fare? Dobbiamo aggiungere lentamente un ottimo brodo vegetale, se fatto da noi ancora meglio, sedano, carota, cipolla è il classico. Aggiungiamo gradualmente il nostro brodo fino a cottura. Ricordiamoci che Risebisi è una cottura che deve essere un po' cremosa, più che all'onda, quasi come una minestra e il risotto. E il risotto all'onda, quello è il Risebisi perfetto. A questo punto mantechiamo se siamo di domenica, quindi ci mettiamo il burro e il parmigiano. Se non siamo di domenica lo mangiamo così, che vi assicuro è buonissimo. Perfetto. Senza bisogno di altro. Se ci piace, arricchiamolo con un profumo finale, che può essere il prezzemolo tritato, che può essere qualche gocciolina di acqua di salvia, che vuol dire una salvia scottata che lascia questo liquido molto profumato. Decoriamolo con qualche pisello crudo, se sono piccolini, come dicevamo poco fa, sono buonissimi, e gustiamoci il piatto con le persone a cui vogliamo bene. Allora, chi sgrana i piselli? Lei fa il riso, io sgrano i piselli, come no, facciamo? Tutto, dai, tutto insieme. Noi andiamo perché abbiamo il risotto da preparare, intanto io vi saluto, vi auguro una buona domenica. Anche Filippo Aureggi è contento, mi sembra che la ricetta del Risebisi gli sia piaciuta. Ringrazio Valentina Ternullo, noi ci diamo appuntamento come sempre domani alle 6:15 per iniziare una nuova settimana. Buona giornata da Nicoletta, grazie dottore Zegovesi. Grazie a voi, arrivederci.